cosa accadde. Signori miei, che chiasse questo? Eterni miei, già sulla strada a questo strepito s'è radunata mezza città. Già sulla strada a questo strepito s'è radunata mezza città. Signor giudizio, per carità. Questo è un birbante! Questo è un birbante! Oh, disgraziato! Ammaledetto! Signor soldato, porti rispetto, signor soldato, porti rispetto, o questo fusto corpo d'un diavolo or la creanza l'insegnerà. Signor giudizio, per carità. Brutto scimmiotto! Il condannato! Zitto tutto! Voglio gridare, fermo signore! Voglio ammazzare! Voglio silenzio, per carità! Non voglio ucciderlo, non ho pietà! Fate silenzio, per carità! Per carità! Zitti che bussano! Good morning, so long.